Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, il Riformista ha pubblicato un documento inedito di Oriana Fallaci, una lettera che la scrittrice aveva inviato nel luglio del 2000 a Chicco Testa, all'epoca presidente di Enel. Nella lettera, Oriana giudica un atto di vigliaccheria l'omicidio del filosofo Giovanni Gentile, ucciso nell'aprile del 44 dai partigiani dei GAP, i gruppi di azione patriottica, soprattutto se confrontato con un episodio avvenuto qualche mese dopo, quando gli stessi gappisti si rifiutarono di boicottare un piano dei nazisti per far saltare i ponti di Firenze. Ecco la lettera di Oriana. Caro Chicco, ecco i libri. Me ne sono appropriata per te, con particolare orgoglio e diletto. M'è parso un omaggio doveroso verso un uomo che venne ammazzato ingiustamente e vigliaccamente. Ammazzato, sì, assassinato. Non giustiziato, come diceva quell'imbecille del tuo professore. Certo un fascista rosso, disinformato, fanatico e uscito dal cottolengo. Io ricordo ancora il giorno in cui lo ammazzarono. Ero una ragazzina con le trecce, una bambina vecchia, che faceva la partigiana nelle file di Giustizia e Libertà. Nome di battaglia, Emilia. Mansioni, ora che ripenso, da rizzare i capelli in testa. Non a caso mia madre urlava a mio padre: «Irresponsabile! Irresponsabili! Servirsi dei bambini così!» Vivevo con lei e la Nera in un buco senza cesso del conventino dove erano nascosti anche alcuni partigiani jugoslavi e dove una sera i tedeschi irruppero con la decima massa. Ma io fui brava. Svelta nascosi le rivoltelle nel cesso del corridoio, bruciai nella stufetta il non mollare e mangiai il foglio coi nomi. E lì veniva ogni tanto il babbo, capo militare del Partito d'Azione Giustizia e Libertà per Firenze. «Porta questa bomba qui, porta questa bomba là. Svelta, vieni con me che si va a un appuntamento con Pippo. O con Berto, o con Dio sa chi». Quel giorno, quel pomeriggio, venne per portarmi a un appuntamento con Pippo, Tristano Codignola. Era verde, fremeva, schiumava e non capivo perché. Ma poi lo capii. Perché a Pippo, in piazza San Firenze, disse: «Hanno ammazzato Gentile, quegli imbecilli, quegli irresponsabili, quei cacasotto». Allora Pippo si mise a tremare, chiese come, e il babbo rispose. Lui era in automobile col finestrino abbassato, aspettava col motore acceso e l'autista. Si sono avvicinati e gli hanno chiesto se avesse un fiammifero per accendere la sigaretta. Lui ha annuito «sì, certo», e mentre gli accendeva la sigaretta, bang, bang, bang. A me non pare che Gentile fosse fascista, o non più di Benedetto Croce che all'inizio leccava il culo a Mussolini, eppure, passata la festa, la sua dissan sinistra lo ha osannato come un grand'uomo. Un uomo probo, una mente sublime. O non più dei comunisti che quando negli anni 30 mio padre veniva bastonato e purgato perché non era iscritto al PNF e faceva il sovversivo, sventolavano la tessera. Se Gentile meritava di morire, allora anche Benedetto Croce lo meritava e tanti altri che sarebbero diventati i numi del PC. E a merito degli azionisti, v'è il fatto che compresero subito la portata dell'errore, anzi, della carognata. Ma la cosa non finisce qui, ed ora viene il bello. Nel luglio, forse agosto del 1944, quando si seppe che i tedeschi avrebbero fatto saltare i ponti di Firenze, il mio babbo concepì un piano per salvare almeno quello di Santa Trinità. Si trattava, avrei scoperto da adulta, di disinnescare le cariche con un'azione condotta da lui ma effettuata da gappisti ingegneri, da tecnici di gran qualità. Operazione difficilissima, ovvio, ma non impossibile, in quanto l'OSS, cioè il servizio segreto americano, aveva fatto sapere che i tedeschi avrebbero messo le mine all'ultimo momento. Quindi, quando gli alleati sarebbero stati alle porte della città e in grado di lanciare un attacchetto eversivo. Il babbo era sicuro di farcela, ma non aveva uomini a sufficienza. I suoi gappisti migliori erano stati arrestati e quelli che gli restavano erano coraggiosi, sì, ma ignoranti, rozzi. Niente ingegneri, niente tecnici di qualità. Così propose di chiedere aiuto ai comunisti e il comitato centrale fu d'accordo, sia pure a malincuore. A malincuore perché dopo lo sciocco e inutile assassinio Gentile, il PDA aveva preso le distanze dal PC e perché con loro non eravamo mai stati pane e cacio. Ci rubavano le armi che l'OSS ci gettava su Monte Giovi, ad esempio. Ci fucilavano i partigiani che incazzatissimi andavano a ripigliarle. Esempio del Tigre e del Balilla. E va da sé che con quelle armi rubate non ci facevano un accidente. Al massimo, ci ammazzavano i vecchi professori in automobile. L'aiuto fu chiesto all'insegna del «volemo sebbene lo stesso», «per una volta lavoriamo insieme», «viva la patria», eccetera. Ma dopo lungo pensare, i gappisti comunisti risposero «no, sarebbe troppo pericoloso». E sai da dove venivano quegli audaci che risposero «no, sarebbe troppo pericoloso»? Dal gruppo che aveva effettuato l'eroica impresa del «che ce l'avrebbe un fiammifero per accendere la sigaretta?» Tienili cari questi libri. E salutami, si fa così per dire, Barrae, Fouché, Tallien, insomma le tre grazie del tuo direttorio. Gli eredi di quegli audaci gappisti che come zitelle inacidite annaspano per non strappare il loro culaccio dalla poltroncina. E meno male che i Napoleoni nascono ogni 1000 anni, se no, grazie a loro, ne verrebbe fuori uno e anziché di cancro la povera Oriana finirebbe fucilata da lui. Un abbraccio e a bientôt. Avete ascoltato la lettura di una lettera inedita scritta da Oriana Fallaci a Chicco Testa nel luglio del 2000, pubblicata dal Riformista del 9 maggio. Qualche giorno dopo, sempre sul Riformista, il nipote di Giovanni Gentile interviene sul dibattito suscitato dalla pubblicazione della lettera inedita di Oriana. Perché Oriana Fallaci non ha parlato pubblicamente dell'omicidio Gentile? La sua lettera è un articolo di grandissimo interesse. A dirlo è Giovanni Gentile, editore della casa editrice Le Lettere e nipote dell'omonimo filosofo ucciso a Firenze il 15 aprile 1944 dai gappisti Bruno Fanciullacci e Antonio Ignesti. Gentile Junior è rimasto sorpreso e un po' sconcertato dal carteggio inedito tra la scrittrice e Chicco Testa, che ha riportato alla luce l'omicidio di Gentile. Nella lettera, la Fallaci definiva quello del filosofo un assassinio vigliacco, una carognata perpetrata dai gappisti. Gli stessi che, racconta la scrittrice, risposero picche al padre Edoardo quando si trattava di disinnescare le bombe naziste dei ponti di Firenze, in quanto troppo pericoloso. Gentile Junior smentisce la Fallaci sul paragone con Croce. È una posizione estrema, i due intellettuali non sono paragonabili nel loro rapporto con il fascismo, ma concorda con la scrittrice sulla vigliaccheria. Mio nonno era un obiettivo troppo facile, perché senza rischi e di forte rilevanza mediatica, simbolica, mentre i bersagli veri, come il Maggiore Carità e la sua omonima efferata banda, venivano ritenuti troppo pericolosi da attaccare perché scortatissimi. Gentile non fa nomi, ma al contrario cita Giampaolo Pansa come punto di partenza per rivalutare la storia in maniera più oggettiva. Anche grazie a lui oggi nessuno crede più che sia tutto oro quello che luccica. Nel 1944 certamente l'RSI stava dalla parte sbagliata, ma ci sono stati episodi terribili da entrambi i fronti. Oggi il compito dello storico è abbandonare i paraocchi delle ideologie. Continua Gentile. Riguardo l'omicidio di mio nonno si è detto persino che fosse stato ucciso dagli inglesi o dai fascisti. A tal proposito, concordo con l'articolo di Veneziani, comparso lunedì scorso sul giornale. Giovanni Gentile è stato ucciso perché puntava a una riconciliazione nazionale e questo lo aveva reso un nemico agli occhi del Partito Comunista di Togliatti. Cosa pensa oggi Giovanni Gentile Junior di chi reputa Fanciullacci un eroe? Fanciullacci, confessa l'editore, è una figura di luci e ombre. È stato l'esecutore di un'operazione vigliacca, certo, ma poco tempo dopo sarà l'autore di una nobile azione, preferendo la morte invece di fare la spia sotto tortura della banda Carità. L'importante è non fare come è successo a mio nonno, cioè giudicare una persona da aspetti parziali. Quindi Gentile accetta anche una piazza dedicata all'assassino di suo nonno? Non credo sia ingiusto. È ingiusto invece che Firenze si sia opposta a dedicare una targa a mio nonno sul luogo dell'assassinio. Anche la Gelmini ha riconosciuto recentemente gli insuperabili meriti della riforma scolastica Gentile. Ma purtroppo a Firenze c'è una tale miopia storica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonello Guerrera, Mio nonno Gentile, obiettivo troppo facile, dal Riformista dell'11 maggio.

il narcisista avrà ottenuto ciò che voleva e al settimo cielo penserà: ah, alla fine hai capito che era meglio fare a modo mio. Nella loro ricerca di controllo e dominio, i narcisisti non pensano che ognuno di noi è libero di fare le proprie scelte. Ogni persona, senza eccezioni, è dotata di libero arbitrio. Alcuni lo esercitano in modo responsabile, altri no. Ma in entrambi i casi tutti vogliono essere in condizione di esprimere appieno la propria volontà. Quando questa possibilità viene vanificata, ci sentiamo frustrati, infelici e arrabbiati. È molto probabile che la libertà produca scelte migliori in quei rapporti sani, dove ciascuna delle due parti permette all'altra di cercare di dare ordine alla propria vita, conservando al contempo la propria unicità. Questi rapporti sono scevri di coercizione fisica o verbale, di intimidazione, sensi di colpa o sotterfugi. Le persone coinvolte sono spontanee, disposte ad ascoltare ed elastiche. Riconoscono che le differenze sono un bene e permettono a ognuno di crescere seguendo il proprio ritmo. Quando parlano, usano un tono di voce calmo e ben modulato. Sarebbe fantastico se tutti i rapporti fossero così equilibrati e aperti, ma la maggior parte dei narcisisti ipercontrollanti non sarebbero d'accordo. Sono talmente dispotici che spesso i loro partner, per far sopravvivere la relazione, partono dal presupposto di dover arrendersi e lasciare che a condurre il gioco sia il narcisista. Invece le cose non stanno per forza in questo modo. Non è compito vostro fare sì che il narcisista pensi in modo giusto, né avete bisogno della sua approvazione per agire come ritenete corretto. Poiché i narcisisti tendono a liquidare come errate tutte le decisioni non formulate da loro, di sicuro reagiranno a ogni vostra rivendicazione, tentando nuovamente di dominarvi. Ma anche se non potete fare in modo che lui o lei la pensino come voi, potete comunque fare le vostre scelte. Se non lo farete, disconoscerete voi stessi. Trattando con i narcisisti ipercontrollanti, si può essere tentati a lasciare che considerazioni a breve termine prevalgano sulle conseguenze di lungo periodo. La maggior parte delle persone sa che ogni volta che si accondiscende ai desideri di un narcisista, pur di evitare uno scontro, l'infelicità non può che aumentare. È probabile, infatti, che il narcisista si senta legittimato a pensare: «Sapevo di avere ragione e sono contento che l'abbia capito anche tu». È facile convincersi del fatto che per raggiungere la pace sia necessario rispondere con la completa sottomissione, ma questo vi costerà la vostra libertà di scelta. Un'altra strategia improduttiva con i narcisisti ipercontrollanti è cercare di evitarli o rifuggire dal loro comportamento irritante e antipatico. Non è sempre una scelta sbagliata, soprattutto quando il rapporto è estremamente scorretto o superficiale. Molte persone, ad esempio, si sganciano da un'amicizia nascente quando diventa manifesto che l'amico in erba è troppo invadente o prepotente. Una decisione del genere, in effetti, può essere saggia, ma nel caso di rapporti più intimi, specie se riguardano un genitore o il consorte, il distacco, per quanto allettante, può non essere possibile o addirittura saggio. Il vecchio adagio «combatti il fuoco con il fuoco» potrebbe sembrare un buon sistema per affrontare i narcisisti ipercontrollanti, ma non lo è. Quando un narcisista avverte che non siete d'accordo, probabilmente reagisce contestandovi duramente e cercando di costringervi ad accondiscendere. Il risultato sarà un inutile scambio di accuse, attacchi e argomentazioni. Quando si cerca di cambiare un manipolatore cronico, in genere si è prigionieri di una forma di pensiero mitico. In altri termini, è la fantasia, non la realtà, a guidare i vostri sforzi. Supporre che in qualche modo le nostre parole improvvisamente potranno indurre il narcisista a cambiare rotta e diventare una persona empatica e ragionevole è pura fantasia. Quando ci si sente frustrati dal comportamento del narcisista, preghiere e perorazioni possono sembrare un'opzione valida, ma alla fine questo sistema non funziona. Ci deve essere un altro modo. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Les Carter, Difendersi dai narcisisti, come non farsi rovinare la vita da chi pensa solo a se stesso. Tea Editore, 224 pagine, 12 euro.